Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Perché in quell'istante non spensi la scintilla di vita che tu mi avevi avventatamente donato? Non lo so, non ero ancora preda della disperazione. I miei sentimenti erano di rabbia e di vendetta. Avrei distrutto con gioia la casa e i suoi abitanti. Avrei goduto delle loro grida e del loro dolore. Quando scese la notte, abbandonai il mio rifugio e vagai per il bosco, non più trattenuto ormai dal timore di essere scoperto. Diedi libero sfogo alla mia angoscia con ululati terrificanti. Ero come una bestia selvaggia che avesse spezzato le catene. Distruggevo tutto ciò che mi si parava dinanzi e correvo per la foresta alla velocità del cervo. Che terribile notte passai! Gli alberi agitavano i rami nudi sopra la mia testa. Ogni tanto il silenzio era rotto dalla voce melodiosa di un uccello. Tutto era quiete e gioia, tutto all'infuori di me. Io, come l'arcidiavolo, portavo in me l'inferno, e poiché nulla amavo, sentivo il desiderio di sradicare gli alberi, di spargere all'intorno sterminio e distruzione, e di sedermi poi a gioire della rovina. Si levò il sole, udii le voci degli uomini e compresi che mi era impossibile ritornare quel giorno al mio rifugio. Mi nascosi quindi nel folto del sottobosco e decisi di dedicare le ore successive a riflettere sulla mia situazione. La luce del sole e la purezza dell'aria mi ridiedero un po' di tranquillità. Quando considerai l'accaduto, non potei fare a meno di pensare di essere stato troppo precipitoso nelle mie conclusioni. Avevo agito imprudentemente, certo. Con le mie parole mi ero senza dubbio conquistata la simpatia del vecchio ed ero stato pazzo a esporre la mia persona all'orrore dei figli. Avrei dovuto prima abituare il vecchio Delassé alla mia presenza, poi a poco rivelarmi al resto della famiglia quando gli altri fossero stati preparati ad avvicinarmi, ma non mi sembrava che i miei errori fossero irrimediabili. Dopo lunghe riflessioni, decisi di tornare alla casetta, di cercare il vecchio e guadagnarlo con suppliche alla mia causa. Questi pensieri mi calmarono e nel pomeriggio caddi in un sonno profondo, ma la febbre che avevo nel sangue non mi permise sogni tranquilli. Mi svegliai esausto e, accorgendomi che era già notte, scivolai fuori del mio nascondiglio e andai in cerca di cibo. Placata la fame, mi diressi verso il ben noto sentiero che conduceva alla casa. Entrai silenziosamente nel mio rifugio e restai in silenziosa attesa dell'ora in cui la famiglia si sarebbe destata. Quell'ora passò Il sole si levò alto nel cielo, ma i miei vicini non apparvero. Previdi qualche sciagura e fui colto da un fremito violento. Nella casa era buio e non si udiva movimento alcuno. Non posso descrivere l'angoscia di questa attesa. Passarono due contadini che, fermandosi accanto alla casa, cominciarono a discutere gesticolando, ma non compresi quello che dicevano perché parlavano la lingua del paese diversa da quella dei miei protettori. Poco dopo apparve Felix, accompagnato da un'altra persona. La cosa mi stupì, perché sapevo che non ero uscito di casa quella mattina, e mi sforzai di comprendere dai suoi discorsi il significato di questi movimenti insoliti. Il suo accompagnatore disse: «Considerate che sarete obbligati a pagare 3 mesi di affitto e a perdere i prodotti dell'orto. Non voglio ricavare alcun illecito profitto, vi prego quindi di attendere qualche giorno prima di decidere». E Felix rispose: «È assolutamente inutile. Non possiamo più abitare nella vostra casa. In seguito alla circostanza spaventosa che vi ho riferito, la vita di mio padre è in grandissimo pericolo. Mia moglie e mia sorella non potranno mai rimettersi dall'orrore che hanno provato. Vi scongiuro di non discutere oltre. Prendete possesso della vostra proprietà e lasciate che mi allontani da questo luogo». Dicendo questo, Felix tremava violentemente. Entrò nella casa con il suo compagno e vi restò per qualche minuto. Poi si allontanò. Non rivedi più nessuno della famiglia di lassù. Rimasi per tutto il resto della giornata nel mio rifugio, in uno stato di indicibile ed ebete disperazione. I miei protettori se n'erano andati, avevano spezzato l'unico vincolo che mi tenesse legato al mondo. Per la prima volta sentimenti di vendetta e di odio mi riempirono l'animo ed io neppure cercai di dominarli, ma lasciandomi trascinare volsi lo spirito alla distruzione e alla morte. Quando ricordavo i miei amici, la voce dolce di De Lassé, gli occhi buoni di Agatha, la squisita bellezza dell'araba, questi pensieri svanivano e scoppiavo in pianto. Ma quando ricordavo che essi mi avevano respinto e abbandonato, l'ira tornava ad afferrarmi, un'ira furibonda, e non potendo infierire su un essere umano, sfogavo la mia collera su oggetti inanimati. Quando giunse la notte, dispose attorno alla casa combustibili di ogni sorta, e dopo aver distrutto ogni traccia di coltivazione nell'orto, attesi con impazienza repressa che la luna tramontasse per dare inizio alla mia opera. Con il procedere della notte un forte vento si levò dai boschi e spazzò rapidamente le nubi che indugiavano nel cielo. Le raffiche si precipitavano innanzi come una valanga possente, produssero nel mio animo una specie di pazzia che infranse ogni vincolo di ragione e di riflessione. Accesi il ramo secco di un albero e presi a danzare freneticamente attorno alla casa condannata, gli occhi fissi alla linea dell'orizzonte a occidente, già sfiorata dalla luna, quando alla fine una parte del suo disco si nascose, scossi la torcia, la abbassai e con un gran grido appiccai il fuoco alla paglia, all'edera e ai ramoscelli che avevo ammassato. Il vento alimentò il rogo e in breve la casa fu avviluppata dalle fiamme che l'assalivano e la lambivano con le loro lingue forcute e distruttrici. Non appena ebbi la certezza che nessuna parte dell'edificio avrebbe potuto essere salvata. Lasciai il luogo e andai a cercare rifugio nei boschi. E ora che il mondo si apriva dinanzi a me, in quale direzione avrei mosso i miei passi? Decisi di fuggire dal teatro delle mie sciagure, ma per me, odiato e disprezzato, ogni paese sarebbe stato egualmente orribile. Alla fine mi balenò alla mente il pensiero di te. Sapevo dalle carte che tu eri mio padre, il mio creatore. A chi avrei potuto meglio rivolgermi che a colui il quale mi aveva dato la vita? Tra le lezioni che Felix aveva impartito a Safi non era stata trascurata la geografia, e conoscevo quindi la posizione relativa dei vari paesi della terra. Tu parlavi di Ginevra come della tua città natale. Decisi di dirigermi a quella volta, ma come avrei potuto trovare la strada? Sapevo di dover viaggiare verso sud per raggiungere la meta, ma non avevo altra guida all'infuori del sole. Non conoscevo i nomi delle città che avrei dovuto attraversare, né avrei potuto chiedere informazioni ad alcun essere umano. Eppure non disperai. Da te solo potevo sperare soccorso, anche se nei tuoi riguardi non nutrivo altro che odio, creatore spietato e senza cuore. Il mio viaggio fu lungo e le sofferenze che sopportai indicibili. Era autunno inoltrato quando lasciai la regione dove avevo così a lungo soggiornato. Viaggiavo solo di notte per tema di incontrare qualche essere umano. La natura appassiva attorno a me e il sole perse il suo calore. Caddero neve e pioggia, grandi fiumi gelarono. La superficie della terra si fece dura, ghiacciata e aspra, e non trovavo rifugio. Terra, quante volte maledissi chi era stato la causa della mia esistenza. Era scomparsa la dolcezza della mia natura. Tutto in me si era tramutato in tormento e amarezza. Più mi avvicinavo alla tua dimora, più acuto avvertivo lo spirito della vendetta che mi torturava il cuore. Cadde la neve, le acque si tramutarono in una distesa solida, ma io non mi arrestai. Ogni tanto qualche caso fortuito serviva a indicarmi la direzione. Possedevo una carta geografica del paese, ma spesso mi allontanavo dal percorso. L'angoscia non mi dava tregua. Non mi capitò un solo caso dal quale la mia ira e il mio dolore non traessero alimento. Anzi, un fatto accaduto nei dintorni del confine svizzero, quando il sole aveva ritrovato il suo calore e la terra cominciava a rinverdire, esasperò in modo particolare l'amarezza del mio animo. Di solito riposavo durante il giorno e viaggiavo solo quando ero sicuro che le tenebre mi nascondessero alla vista dell'uomo. Ma una mattina, notando che il mio sentiero si snodava attraverso un bosco fittissimo, mi arrischiai a proseguire il mio cammino quando già il sole era spuntato. La giornata, agli inizi della primavera, infondeva persino a me un poco di allegria con il suo splendore e la sua aria profumata. Sentivo rinascere in me sensazioni di bontà e di gioia che credevo da lungo tempo spente. Sorpreso dalla novità di queste emozioni, mi lasciai trascinare da esse, dimenticando la mia solitudine e la mia deformità. Osai essere felice. Continuai ad avanzare fra i sentieri del bosco fino a quando non giunsi al limite, segnato da un fiume rapido e profondo in cui molti alberi piegavano i loro rami, già coperti di gemme primaverili. Là, non sapendo esattamente quale strada seguire, mi fermai quando sentii un suono di voci che mi spinse a nascondermi all'ombra di un cipresso. Non appena ebbi fatto ciò, una giovane donna venne correndo verso il luogo dove io mi celavo, ridendo, come se per gioco cercasse di fuggire a qualcuno. Continuò la sua corsa lungo le rive scoscese del fiume, quando improvvisamente mise un piede in fallo e cadde nella corrente impetuosa. Mi precipitai fuori dal mio nascondiglio e, lottando con la violenza delle acque, la salvai e la trassi a riva. Era priva di sensi e io cercavo come meglio potevo di farla rinvenire, quando fu improvvisamente interrotto dal sopraggiungere di un contadino, probabilmente la persona dalla quale la fanciulla fuggiva per gioco. Come mi vide, mi si precipitò addosso, mi strappò la giovane dalle braccia e si affrettò verso il fitto del bosco. Lo inseguì rapido, non sapevo neppure io perché, ma quando vide che mi avvicinavo, l'uomo mi prese di mira con una rivoltella che aveva con sé e fece fuoco. Caddi a terra e il mio feritore fuggì nel bosco con raddoppiata rapidità. Era questa dunque la ricompensa alla mia bontà. Avevo salvato un essere umano dalla morte e ora, come premio, mi contorcevo per il dolore di una ferita che mi dilaniava carne e osso. I sentimenti benevoli che mi pervadevano solo pochi momenti addietro si trasformarono in ira diabolica e in digrignare di denti. Esacerbato dalla sofferenza, giurai odio eterno e vendetta contro tutta l'umanità, ma lo strazio della ferita mi vinse, il polso si arrestò e svenni. Dopo qualche settimana la ferita guarì e ripresi il mio viaggio. Le fatiche che affrontavo non ricevevano ormai più sollievo dallo splendore del sole o dalle brezze gentili della primavera. Ogni gioia non era che una beffa che insultava la mia desolazione e mi faceva sentire più penosamente come non fossi stato fatto per godere di alcun piacere. Ma i miei travagli si avvicinavano alla fine. In 2 mesi circa raggiunsi i dintorni di Ginevra. Era sera quando arrivai e mi ritirai in un nascondiglio fra i campi che circondavano la città a riflettere sul modo in cui avrei potuto giungere fino a te. Ero oppresso dalla stanchezza e dalla fame e troppo infelice per godere delle lievi brezze della sera o della vista del sole che tramontava dietro le stupende montagne del Giura. Venne a sollevarmi dai miei cupi pensieri un sonno leggero, disturbato poi da un bel bambino che con tutta la spensieratezza dell'infanzia veniva di corsa verso il rifugio da me scelto. Improvvisamente mentre lo guardavo, mi venne l'idea che quella piccola creatura non doveva avere pregiudizi, che era al mondo da troppo poco tempo per conoscere l'orrore per la deformità. Se avessi potuto impadronirmi di lui ed educarlo come mio compagno e amico, non sarei più stato solo su questa terra popolata. Spinto da questo impulso, afferrai il bambino mentre passava e lo trassi a me. Non appena si accorse del mio aspetto, egli si coprì gli occhi con le mani ed emise uno strillo acuto. Lo costrinsi ad abbassare le mani dal viso e dissi: «Bimbo, che fai? Non voglio farti del male. Ascoltami». Egli si dibatté con violenza. «Lasciami andare! Mostro, demonio orrendo! Vuoi mangiarmi e farmi a pezzi? Sei un orco, lasciami andare, lo dico al mio papà!» «Ragazzo, non vedrai più tuo padre. Devi venire con me». «Mostro orrendo, lasciami andare! Mio papà è un magistrato, è il signor Frankenstein e ti farà punire! Non osare trattenermi!» Frankenstein, tu appartieni allora al mio nemico, a colui al quale ho giurato vendetta eterna. Tu sarai la mia prima vittima. Il bimbo continuò a dibattersi e a caricarmi di ingiurie che portavano la disperazione nel mio cuore. Lo strinsi alla gola per farlo tacere. Un istante dopo giaceva morto ai miei piedi. Fissai la mia vittima e il mio cuore palpitò di esultanza e di diabolico trionfo. Mentre fissavo il bimbo, vidi qualcosa luccicargli sul petto. Lo presi. Ah, era la miniatura di una bellissima donna. Malgrado la mia perversità, mi intenerì e mi attrasse. Per qualche istante guardai con gioia i suoi occhi scuri dalle lunghe ciglia e le sue splendide labbra, ma poi ricaddi subito preda dell'ira. Ricordai che io ero bandito per sempre dalle gioie che simili creature possono offrire, e che se mi avesse visto quella stessa persona che stavo ammirando, avrebbe mutato questa sua aria di divina bontà in un'espressione di terrore e di disgusto. Sconvolto da simili emozioni, lasciai il luogo del delitto e, cercando un nascondiglio più sicuro, entrai in un fienile che mi sembrava vuoto. Sulla paglia dormiva una donna. Era una giovane, non bella certo come la donna della miniatura, ma di aspetto gradevole e nel pieno del fulgore della giovinezza e della salute. Ecco, pensai, una delle creature cui sorrisi che sanno dare tanta gioia sono destinati a tutti fuori che a me. Mi chinai su di lei e sussurrai: «Svegliati, bella fanciulla, il tuo innamorato è vicino a te. colui che darebbe la vita per ottenere dai tuoi occhi un solo sguardo affettuoso. Svegliati, mia amata. La dormiente non si mosse e un brivido di terrore mi prese. Si sarebbe davvero svegliata, mi avrebbe visto il maledetto e denunciato come assassino. Certo che avrebbe agito così se avesse aperto gli occhi e mi avesse visto. Il solo pensiero mi fece impazzire e riscosse il demone dentro di me. Non io, ma lei avrebbe sofferto, avrebbe scontato lei il delitto che io avevo commesso perché ero stato derubato per sempre delle gioie che lei avrebbe potuto darmi. Il mio crimine aveva in lei la propria origine. Che fosse sua la punizione. Mi chinai su di lei e feci scivolare la miniatura in una delle pieghe della sua veste. Si mosse di nuovo e io fuggii. Per alcuni giorni mi aggirai attorno ai luoghi che erano stati teatro di questi avvenimenti. Ora, spinto dal desiderio di vederti, ora decisa ad abbandonare per sempre il mondo e le sue miserie, mi diressi alla fine verso queste montagne e vagai per i loro immensi recessi, consumato da un'inquietudine bruciante che tu solo puoi soddisfare. Non ci separeremo fino a quando non avrai promesso di consentire alla mia richiesta. Sono solo e infelice. L'uomo non mi sarà mai compagno, ma un essere deforme e orribile mio pari non mi si negherebbe. La mia compagna deve essere della mia stessa specie e deve avere i miei stessi difetti. È un essere così che devi creare. Ad alta voce, Tommaso Ragno ha letto Frankenstein di Mary Shelley. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.